Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Ultima puntata estiva del riposo del guerriero, rotocalco di Radio 24, ognuna dedicata a un colore dell'estate. Oggi abbiamo pensato al rosso, il rosso come la passione per la vita, la passione per le cose, la passione per le persone sicuramente, anche la passione per la musica. Infatti cominceremo proprio da questo, ma in questa puntata avremo come sempre anche i nostri ospiti, come Francesca Dragotto, la nostra glottologa, oppure Alessandra Tedesco per parlare di libri, o ancora parleremo con Andrea Ligabue ed Emilio Cozzi di giochi e videogiochi, andremo al cinema con Marta Cagnola, uniremo cinema e gusto grazie al nostro cinegustologo Marco Lombardi e chiuderemo con i suggerimenti del gastronauta, ovvero di Davide Paolini. Cominciamo allora questa puntata con una canzone che sicuramente ha unito la passione di chi ascolta la musica in tutto il mondo. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Eccolo qua, Domenico Modugno, l'originale, questo è quello vero. Tommaso Labranca, anche tu sei vero, buona domenica, ciao. Ciao, sì, sono l'originale Tommaso Labranca. Non esistono copie. Ma per fortuna. Tommaso Labranca, scrittore, conduttore, autore di programmi, fai tante cose, hai scritto anche tante biografie. Beh, tante. Un po'. Forse sì, facciamo la media. Jimi Hendrix, John Lennon. Sì, Renato Michael Zero, Jackson, Michael Jackson. Non mi ricordo più. Vabbè, sono veri, quindi sono tanti, non ti ricordi più tu. Orietta Berti, la prima che ho scritto, Orietta Berti. Ma dai. Sì, sì. Come mai ti è venuto in mente di scrivere una biografia? Perché avevamo fatto un programma insieme, sì? È nato l'amore e ho detto: Orietta, scrivono libri su tutti, perché non facciamo un libro su di te? Ragione. Quindi abbiamo fatto una lunghissima intervista. Lei felicissima. Lei felicissima, io di più ancora, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Siamo ancora molto amici, ci sentiamo continuamente. Cucina bene? No, non sa, ecco, vi rivelo questa cosa. Orietta Berti non sa cucinare. Benché avrei detto pensi, assolutamente il contrario. Per assolutamente no, non sa cucinare. Sarà contenta che tu così lo dichiari in questo modo. Ma no, però lei sa cantare. Beh, questo, e questo è l'importante, sì. Cucinare è una cosa secondaria. Beh, certo, ma ci sono tante cantanti che si sono date alla cucina, eh? E se smettessero di cantare nel frattempo sarebbe anche meglio, capisci? Però no, lei non la cucina, insomma, mangia, ecco. Questo è dall'altra bene, parte del tavolo. Veniamo invece a Domenico Modugno e questa Volare, che tu dici è una canzone che non è italiana, pur essendo la canzone italiana più famosa del mondo. Ed è strano, perché sì, è una canzone anti-italiana, perché nasce proprio per contrastare il bel canto all'italiana, cioè quello disteso, le vocali, allungate all'infinito, sì. E invece cosa fa Modugno? Punteggia. All'inglese, infatti ha un accento che sembra straniero, cioè addirittura canta in italiano, ma sembra quasi uno straniero che si mette a cantare in italiano. È curioso. Perché il testo è fatto tutto di sillabe brevi. Allora, sì, perché l'italiano non può mai cantare il rock? Perché abbiamo delle parole troppo lunghe, mentre il rock ha bisogno di sillabe brevi. Sì. Infatti, se ci pensi, è blu dipinto di blu, sì, con te, ma è lo stesso volare, sono tre sillabe, facilissime in tutte le lingue, pensa anche in Giappone, se potrebbero. E forse il successo sta in questa cantabilità. In realtà, musicalmente, è una canzone francese, non è una canzone italiana, sembra una canzone da chansonnier francesi. L'unica vera, io ti dicevo prima che c'è un'altra canzone italiana, sì, che invece ha avuto molto successo, che è Con te partirò di Bocelli. Sì, molto più recente. Molto più recente e molto più fintamente italiana, nel senso proprio una furbata. Beh, quella è una grandissima furbata, perché furbata sembra un pezzo lirico, quindi sembra un'aria tratta da un'opera, e non è vero, perché esatto, è stata scritta apposta, e quindi c'è la genialità proprio di chi la doveva portare, Bocelli, in quel caso a Sanremo, e la costruzione, e credo che sia, comunque è una canzone straordinaria da tutti i punti di vista. È una canzone straordinaria, che però dimostra come il pubblico sia un po' disorientato, sì, perché tu proponi una canzone creata appositamente, e la gente pensa sia un pezzo d'opera. Tutti. Poi quando così, il buon Pavarotti cominciò a proporci il Nessun dorma della Turandot, molti credevano fosse una canzone scritta oggi. Con te partirò, vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò. Il riposo del guerriero. Tommaso Labranca, c'è una passione italiana molto particolare, c'è stata anzi una passione che i nostri ascoltatori probabilmente non conoscono così come la conosci tu. Sì, ma non solo in Italia, poi ti dirò dove, in un luogo lontanissimo o quasi. Quindi sentiamo lei? Sì. Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. Quanti anni aveva? Ma penso 92, perché è sempre stata un po'. Cioè, ci hanno spacciata per una ragazzina. È per ormai quello che te lo chiedo. Era su 250. Sì. No, era molto molto giovane. Infatti, aveva avuto sì. 17 anni. Forse non era neanche maggiorenne, dici. Non lo so, adesso non ricordo. No, una Justin Bieber dei tempi, sì. Probabilmente. Appena più simpatica, forse. Più reale, ecco. Allora Rita Pavone canta questa canzone e tu dici, vabbè, l'ascoltavamo in TV, sì. Il sabato. No. Questa canzone ha cambiato, tutte le canzoni della Pavone del tempo, ha cambiato la musica pop degli anni successivi. Come mai? Come mai? Perché in un freddo paese, che oggi conosciamo soltanto per i magazzini dei mobili noti, quelli gialli e blu, eccetera, c'era una ragazzina bionda, appena più giovane della Rita Pavone, che nella sala, con il famoso cordone della tenda, sì, che fingeva da microfono, cantava queste canzoni. Si chiamava Agneta, qualche anno dopo sarebbe entrata negli ABBA, e lei era una fan sfegatata di Rita Pavone, conosceva tutte le sue canzoni. Ma dai. Esatto, ma tutti e quattro erano fan della musica italiana del periodo. Quindi ABBA e Rita Pavone sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa, il problema è che nessuno se ne è accorto. In Italia ce ne accorgiamo noi adesso, sì, alle 10.33 di questa domenica. Vi sto dicendo delle di cose luglio. Fondamentali. Cioè, sì. Gli ABBA hanno copiato sempre la musica italiana, la melodia, innestandoci su poi quel tempo di marcetta che ogni tanto ha, che è tipico dello schlager tedesco, perché comunque dovevano accontentare un po' tutti, sì. In Italia li abbiamo sempre snobbati ai tempi, adesso naturalmente tutti fingono, ah gli ABBA come erano simpatici, trash, vanno a vedere Mamma Mia, queste cose qui che devo dire comunque è un gran musical, perché sono riusciti davvero a incastrare il senso dei testi delle canzoni che nascono per conto proprio a una storia anche molto carina. Esatto, per cui, però il comportamento cosa che non è riuscita dai Queen per quanto riguarda invece il loro musical, chiudo no, la parentesi, per niente, zero. Ecco, perché? Perché, perché nasce comunque gli stessi due, i famosi maschi degli ABBA, ecco, sembra di parlare di un gruppo di animali, il branco, i due maschi degli ABBA dicevano che per loro il top della canzone era Santa Lucia, non ti dico altro. E noi in Italia l'abbiamo sempre sdobbati, soprattutto sai chi? Gianni Boncompagni, sì? Era un feroce odiatore degli ABBA, diceva che erano troppo banali. Poi scriveva le canzoni per la Carrà, ma questo non diciamolo. Ecco, certo, vabbè. Parleremo della Carrà, credo, avremo tempo anche oggi. Passiamo invece a qualcosa di completamente diverso a questo punto. Quelli sono i Who, i Bohu, per dirla proprio come andrebbe detto, di My Generation. Esatto, sono gli Who, diciamo ormai Pete Townsend in particolare, sì, perché ha scritto questa canzone, e qui entriamo in un mondo particolare, cioè il ragazzo o la ragazza che ascolta, in particolare i ragazzi, perché avevano un pubblico essenzialmente maschile, gli Who, e ascoltavano questa canzone e si sentivano come se gli Who fossero il loro portabandiera. Per cui una canzone che si chiama My Generation, che parla della mia generazione, ti porta a una totale... ti senti loro, no? Sì. Ti senti incarnato nella musica che stanno suonando. Ed è importante perché da quel momento in poi nasce la musica generazionale, cioè arriva il cantante o triste o comunque arrabbiato che dice, ah io sono il vostro cantore, sto portando avanti la vostra causa, la vostra battaglia. Naturalmente poi crescono tutti, si cominciano a ignorare e scopri che quelli non, in realtà hanno portato avanti soltanto il conto in banca. Beh esatto, era un modo comunque per vendere dischi alla fine. Era un modo per vendere dischi, perché poi comunque una volta che fai My Generation con il balbettio anche, perché la cantavano con questo balbettio, cosa succede? Poi vogliono un altro disco del genere, però non puoi più parlare lo stesso Townsend. Mi faccio pubblicità, io ho appena finito di tradurre la biografia di Pete Townshend, ecco perché so tutte queste cose su di lui. Lui stesso dice che crescendo è ridicolo mettersi a cantare My Generation quando tutti ormai sono andati a lavorare in banca, hanno due case, si cambia il mondo. E allora arriva un'altra serie di ragazzotti che pensano canteranno My Generation della loro generazione in attesa di andare in banca finché le banche non hanno chiuso però le assunzioni. Questo è un po' normale, il ciclo della vita, no? Di chi canta la propria vita in quel momento è così, insomma, lo riesce a fare il momento in cui sei credibile, poi non lo sei più credibile, per cui devi per forza però, cambiare. Ci sono dei personaggi che continuano a credersi credibili. Ma li questo è un già problema. Numero 5, per esempio. Va bene, vogliamo parlare di quello? Parliamo di numero 5. Ok, il numero 5, eccolo qua. Beh, una bisogno di presentazioni, Vasco Rosso ovviamente, però, ma anche le sue vicissitudini di adesso però continuano a dire che un po' la sua vita continua a essere spericolata. Allora, io ho avuto una notizia, mi è arrivata di seconda mano, quindi recente, non è di prima mano ma di seconda. Sì. C'è il povero Lucio Dalla che diceva sempre che, insomma, Vasco Rossi, vita spericolata, poi la sera sta a casa lì con le pantofole, guarda la televisione, perché lui passava a trovarlo, lo vedeva tristissimo. Per cui una vita spericolata fino a un certo punto, diciamo che è stata... Lo sai che tutti i fan di Vasco Rossi in questo momento ti stanno odiando, no? No, non dovete odiarmi, perché io rispetto molto Vasco, trovo che ha scritto delle canzoni bellissime, però succede sempre così nel pop, capisci? Quando un musicista ha l'intuizione e compone qualcosa di forte come Vita Spericolata, magari non sapeva neanche quello che avrebbe poi creato, perché il pubblico, sentendola, comincia a vivere in maniera spericolata. Certo. Io mi ricordo, appunto, quando uscì questa canzone nei primi anni '80, che i famosi Sconvolti, non so se tu te li ricordi, gli Sconvolti erano quelli che andavano in giro con le Clark finte, con la sciarpina, e che ascoltavano appunto Vasco perché non riuscivano a capire Jim Morrison, che cantava in straniero, allora ascoltavano Vasco. Cioè, almeno capivano il testo. Il testo, e quindi adattavano quel testo, nato chissà come nella testa di Vasco Rossi, a una realtà completamente diversa dall'intuizione di Vasco. L'artista a quel punto si trova in trappola, è costretto a fare quello che i fan gli chiedono. Sì, e certo, quindi, diventa una domanda di mercato, devi rispondere a quella. Lui vorrebbe veramente stare a casa a guardare la TV? No, deve uscire e fare di tutto, perché il fan glielo chiede. Ho capito. Maurizio Targa, intanto, buona domenica. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Maurizio Targa ha scritto un libro molto curioso, piacerebbe molto alla branca, si intitola Ciao amici, ciao, liti, vendette, rancori, ma anche rapacificazioni nella musica pop, edito da Nuovo Equilibrio. Perché? Perché nella musica pop di tutto è successo, a cominciare da io ho sempre avuto una curiosità ed è quella di un quartetto che ebbe grande successo e erano i Ricchi e Poveri e a un certo punto Marina Occhiena dai Ricchi e Poveri sparisce, ecco, ma c'è un motivo, infatti lo scopro dal tuo libro. Marina Occhiena è uscita dal gruppo, diciamo parafrasando Jack Frusciante, che con i Red Hot Chili Peppers è protagonista di un altro capitolo. Marina Occhiena è in quella, diciamo, in quella tipologia di liti che nel mio libro ho definito questioni di cuore, perché ovviamente abbiamo categorizzato, no, le varie liti musicali e buona parte di queste sono dovute anche a ragioni sentimentali. Mi spiego meglio. I Ricchi e Poveri, come forse tutti ricordano, erano un quartetto, due donne e due uomini, Angela e Angelo, Franco e Marina. La prima cosa bella che sarà, alcuni successi, eccetera, ognuno di loro ovviamente ha le proprie storie sentimentali, dopo un flirt iniziale fra i due angeli, nel senso Angelo e Angela. Angela dà alla luce un bimbo nel suo uomo nel 76, Marina, l'altra donna, era legata a Cristiano Minellono. Succede che alla vigilia del Festival di Sanremo del 1981, quello che poi probabilmente regalerà loro il successo che molti ricordano, sarà Perché ti amo, forse il loro più grande successo, viene fuori improvvisamente che, o meglio, all'inizio non si sa, all'inizio i Ricchi e Poveri da 4 diventano improvvisamente 3. Questo sì. Alla vigilia del festival si apprende che Marina Occhiena è stata estromessa brutalmente dal gruppo. Inizialmente non si capisce bene perché. Verrà fuori poco dopo che Marina ha imbastito una storia con il compagno di Angela. Ecco, io che pensavo invece che Marina Occhiena a un certo punto avesse deciso di fare la carriera da solista, perché a volte succede. Sì, ha deciso di fare questo, ma è stata un po' obbligata. È ufficiale, ecco. Che inizialmente lei stessa ha adotto. In realtà, io ci ho creduto, nel mio libro c'è la testimonianza anche di Paolo Barabani, l'autore di Sarà Perché Ti Amo, ricordato però Bob Somarello forse, che racconta appunto quando tornando in albergo trova un via vai di avvocati eccetera, e lui viene a sapere che praticamente il vero motivo, la vera causa è stata il fatto che Marina aveva appunto imbastito una relazione con l'uomo di Angela e lei ha preteso la cacciata su due piedi. Insomma, la storia in quei giorni è stata al centro delle cronache, diciamo, di tutti i giornali. Ecco, mi è sfuggita. Marina non ci sta assolutamente. Sì. Fa un ricorso d'urgenza al pretore di Sanremo, chiedendo il reintegro nel gruppo, minacciando il sequestro del pezzo. Inizialmente il pretore le dà anche ragione, con una decisione d'urgenza. Di fatto si salvano capra e cavoli con un mai confermato ufficialmente accordo economico in cui una buona uscita, una congrua buona uscita alla Marina, che appunto annuncia di voler fare, di voler intraprendere una carriera da solista che non decollerà mai. Ecco, devo dire che continuano la loro onesta carriera, ne anellano anche una buona serie di successi. Di Marina si hanno le tracce nel 2006 con una partecipazione all'Isola dei Famosi, ma artisticamente ben poco altro. Ma Maurizio, no, scusa, ben poco altro. Il 45 giri è Talismano, prodotto da Cristiano Malgioglio. aveva allegato. Lo ricordiamo forse solo noi due, però. Aveva allegato un cuoricino adesivo. Il talismano. Che tu applicavi sulla pelle, certo, ti abbronzavi, poi lo toglievi e restava questo cuoricino bianco. Cioè, è una raffinatezza. Veramente molto, devo dire, molto, molto avanti. È vero che nei gruppi, comunque sia, poi le questioni emotive sono fondamentali, anche perché quando, lo vedremo per tantissimi gruppi della storia, perché nascono e muoiono spesso per questi motivi. C'è un altro gruppo famosissimo, inglese, che muore per una ragione simile, anche se diversa in qualche modo. Qua invece tutto viene all'interno del gruppo. Assolutamente. Parliamo dei Culture Club, lui era Boy George il leader. Giorgio Daut, insomma, molti ricordano, è stata un'icona degli anni Ottanta. Diciamo, delle proprie tendenze sessuali, Boy George non aveva mai fatto troppo mistero. L'outing ufficiale avverrà anni dopo, ma insomma erano abbastanza evidenti le sue preferenze sessuali, come dire. Quello che non era noto era il dramma sentimentale che si stava consumando all'interno del gruppo. Mi spiego meglio. Boy George aveva una relazione, un legame molto molto forte con il batterista di Culture Club, Ian Moss, ma Ian era sposato con figli, anzi ostentava anche le sue, in seguito alla popolarità ottenuta col gruppo, le sue conquiste femminili, spezzando, diciamo, il cuore di George, che era follemente innamorato, diciamo, nella parte del più debole, il più coinvolto, nella parte del più debole. Quello che diciamo che sta alla base del subitaneo declino, perché dopo due o tre anni da veramente nelle top ten americane, inglesi, di tutta Europa, i Culture Club conobbero un declino legato anche diciamo alla dipendenza di Boy George. Ecco, però pare che questa dipendenza sia stata data anche da questa grande illusione d'amore. Assolutamente. Ion non voleva rendere pubblica la loro relazione. Grazie per le vostre passioni musicali, ovviamente. Grazie a Tommaso Labranca e Maurizio Targa. Il riposo del guerriero. Freezing cold in 89 years old. Senti chi parla. Rosso, la passione della nostra ricercatrice glottologa Francesca Dragotto. Ciao, di passione deve averne tanta, perché da studiare c'è molto. Beh, è uno studio che non finisce mai, perché non finiscono mai le parole che costituiscono la nostra lingua in generale, qualsiasi lingua. Anzi, andiamo a terminare, dimmi. No, dico, anzi, ne costruiamo di nuove di volta in volta, no? Ecco. Sì, ma è anche vero che ne lasciamo cadere in disuso alcune, che ne recuperiamo alcune cadute in disuso nella generazione precedente per dar loro nuovo significato e rimettere in circolazione. È un continuo via vai di forme e di significati. L'importante è che non si interrompa mai la comunicazione, perché poi è lo scopo fondamentale per cui abbiamo sviluppato la lingua. Ecco, senti, colore, visto che di colore abbiamo parlato in queste puntate estive del riposo del guerriero, è associato alla radice di celare, quindi nascondere? Sì, ho lasciato in fondo quello con cui avrei voluto aprire, proprio per capovolgere l'ordine delle argomentazioni rispetto a quanto faccio solitamente. La radice della parola colore, naturalmente un latinismo, è proprio la stessa di celare, nascondere. Che cosa ne consegue? Che la caratteristica fondamentale del colore è quella di nascondere le cose. È una prospettiva ribaltata rispetto alla nostra, che anzi vede nel colore qualcosa che esalta, che ci permette di contraddistinguerle l'una dall'altra. Però l'etimologia in questo non mente. Evidentemente chi ci ha preceduto doveva vedere, interpretare la realtà in maniera diversa. Sì, oppure noi. Perché non so, se avevi una stoffa, un cotone che aveva, non aveva colore, il colore del cotone naturale, per nascondere il suo colore naturale usavi il colore, credo che derivasse da quello alla fine, cioè quindi tinteggiare potrebbe essere, no? Se no sarebbe stato tutto uguale. Potrebbe essere, non ti me la sono inventata adesso, ma tu prendila come buona. Si prende sempre come buona, poi si va a verificare, si espunge e respinge quello che non è supportato da sufficienti prove, da sufficienti evidenze. Vado a chiudere la girandola di colori che ha accompagnato l'estate del guerriero, citando due filastrocche tra le tante che nel corso degli anni sono state scritte per celebrare i colori. Della prima non sono riuscita a trovare l'autore, però ne ho trovate attestate diverse varianti, segno che si tratta di un canovaccio piuttosto noto e rielaborato. Marachelle, dispetti e bisticci, che colore avranno i capricci? I capricci sono sempre rossi, per la vergogna di chi li fa. Le bugie sono tutte gialle, mentre è blu la verità. Rosa sono le fantasie, sia le vostre sia le mie. Se mi butto giù dal letto, vedo stelle color violetto. Se rovescio pane e burro, cado e mi faccio un livido azzurro. Se non studio la lezione, me la immagino marrone. Se mi picchio con Carletto, vedo un bel color bluetto. Ma se poi fossi perfetto, se io andassi presto a letto, fossi buono e anche sincero, forse sarei in bianco e nero. La ragione per cui l'ho scelta evidente ed è legata proprio alla collocazione antitetica di questo testo rispetto al significato etimologico della parola colore, perché poche altre cose come i colori hanno suggestionato e continuano a suggestionare il nostro animo, alimentando il cosiddetto lato verde del cuore, quindi il lato della vita pulsante, tanto per giocare con una delle tinte di cui abbiamo trattato nelle scorse puntate. Ma voglio tornare al testo e concentrarmi sulle sinestesie che ne caratterizzano la fattura. La sinestesia è una figura retorica ed è fondata sull'associazione in attesa di esperienze sensoriali differenti. Che cosa consegue dal ricorso alla sinestesia? La possibilità di attribuire il rosso ai capricci, il giallo alle bugie, la verità al blu, il rosa alla fantasia, il violetto alla sensazione che si prova cadendo dal letto. Mi riferisco al testo che abbiamo appena letto. Una lezione non studiata invece evoca, almeno nell'autore di questa filastrocca, la tinta marrone. Il blu, non per sinestesia ma stavolta per osservazione, è il colore del livido. Insomma, i colori sono tutto tranne che delle caratteristiche impalpabili e prive di conseguenze sull'uomo. Alcune delle associazioni che vengono proposte per certi versi sono però in natura e quindi sono valide per tutti. Insomma, il rosso delle guance, che è dovuto all'imbarazzo, e il livido bluastro prescindono dalla cultura di appartenenza di ciascuno di noi. Altre invece sono più soggettive e per questa ragione valide soltanto per alcuni parlanti. Ho detto già che di questa filastrocca esistono altre versioni e in una di queste infatti ho trovato le bugie celesti e le marachelle gialle. Le bugie esattamente sono del colore del cielo perché sono fantasie, mentre le marachelle sono gialle gialle gialle gialle. Passo direttamente al secondo testo, che stavolta ha un autore, un grande autore a te molto caro, parliamo naturalmente di Gianni Rodari, perché Gianni Rodari ha associato i colori persino ai mestieri. Ogni mestiere ha il proprio colore identificativo. In un'altra filastrocca avrà anche il proprio odore caratteristico. Io so i colori dei mestieri, sono bianchi i panettieri. S'alzano prima degli uccelli e han la farina nei capelli. Sono neri gli spazzacamini, di sette colori sono gli imbianchini. Gli operai dell'officina hanno una bella tuta azzurrina. Hanno le mani sporche di grasso. I fannulloni vanno a spasso. Non si sporcano nemmeno un dito, ma il loro mestiere non è pulito. 7 sono i colori degli imbianchini, però etimologicamente invece l'imbianchino è monocromatico, perché lo sentiamo subito, ha a che fare con il bianco, l'imbianchino. Quindi 7 sono i colori degli imbianchini, come 7 sono i colori dell'arcobaleno, almeno nella visione collettiva: rosso, arancione, giallo, verde, blu, porpora, violetto, indaco. In realtà abbiamo a che fare con uno spettro continuo prodotto dalla luce solare. Questo spettro è di colore bianco e acquisisce colore quando attraversa le gocce d'acqua sospese nell'aria. Però poco importa ai fini della costituzione di questo repertorio colorato. Allora passo a considerare, esattamente come ho fatto nelle puntate precedenti, una serie di associazioni del rosso con altri termini che hanno dato forma a dei modi di dire. Le espressioni più note usate associate al rosso sono: rosso come il fuoco, rosso come un gambero, rosso come un papavero, come un peperone, come un pomodoro, come un rubino, come una fragola. Essere in rosso invece ha tutt'altro significato, e in periodo di vacanze il rischio di rimanere in rosso è piuttosto diffuso. Anche prima delle vacanze? In quel caso in vacanza non ci si va. In generale. essere la primula rossa invece implica l'essere scarsamente reperibili. Si vede rosso come il toro quando si è arrabbiati, quando si carica, a luci rosse ci riporta a un argomento del tutto differente, semmai collegato con quello del chalice e del Viagra di un paio di puntate fa. Sputare rosso, allarme rosso, sono altri modi di dire collegati a questo colore, ma rosso è anche il filo che lega dei fatti che in apparenza non sono tra loro collegati, quando diciamo il fil rouge, il filo rosso. Rossa è la luce che indica lo stop, anche di questo abbiamo parlato nel caso del rapporto con il verde nel semaforo. In politica il rosso è associato alla sinistra, nel calcio al cartellino dell'espulsione, e se si tratta invece di giubbe, di magliette, rosse sono le furie, quindi la squadra spagnola, la nazionale spagnola, per il colore della casacca. Rosso è anche il colore della Ferrari. Abbiamo proverbi anche in questo caso che contengono il riferimento al colore, e uno su tutti, notissimo, è: rosso di sera bel tempo si spera, rosso di mattina, vediamo se te lo ricordi, la pioggia s'avvicina. Grazie Francesca Dragotto, tutopoli.com per quello che avete ascoltato, ma anche gli altri approfondimenti, e poi ovviamente la pagina di Facebook del Riposo del Guerriero. Il Riposo del Guerriero. La sua faretra è piena di libri, non di frecce, ed è Alessandra Tedesco. Ma che bella presentazione, non mi era mai capito. Sì, no. Sì, il cacciatore di libri, però con questa bella presentazione. Immagino con questa faretra dietro piena di libri. Quasi Amazzone, insomma. Ce ne sono pochi, perché ha quella forma e non si addice molto al libro. No, però. Però se ci metti un e-reader sai quanti libri puoi contenere. Questo sicuramente, però la carta ribadiamo che ha il suo fascino. Assolutamente, come fa a rinunciare. A proposito, siccome il colore oggi è rosso, quindi la passione anche per la carta, proprio il supporto. Io ho una passione incredibile per la carta, leggo anche sui reader naturalmente, però devo dire la carta è la mia passione. Poi posso dire una cosa, cioè avere i libri nella libreria è veramente la storia della tua vita, averli in un ebook è una storia segreta. Sì, forse non ti ricordi neanche tu di avere. Esattamente. Tu hai le gocce d'acqua per caso? Le gocce d'acqua? Sì. Devi guardare i polpastrelli così, se spuntano come delle piccole gocce d'acqua sul polpastrello, se hai una piccola protuberanza. No, non guarda bene. Ce l'ho, forse sì, ce l'ho. Che cosa vuol dire? Che tocchi la carta quando leggi i libri, che continui a sfregarli. Ah, sì, questo ti è vero. Ti piace la sensazione fisica? Sì, mi piace moltissimo, È una cosa che... un po' come il callo dello scrittore, no? Ho anche quello. Ovviamente. Non usi più la tastiera, ormai no, abbiamo un po' perso. La tastiera, ma non parliamo di di scrittori, che era meglio. Per raccontare delle cose anche agli ascoltatori che magari non conoscevano. Non conoscono la mia faccia, le mie mani, e ora le conoscono. Adesso sono tutti lì che stanno guardando le gocce d'acqua. Va bene, allora di quali libri parliamo? Rosso ovviamente è la passione, sì. Indovina un po' qual è stato il best seller dell'estate. No. Allora, anche quest'estate sono tornate le 50 sfumature di rosso, grigio e nero. Voi direte, ma non c'erano l'anno scorso? Sì, ma quest'anno in edizione economica e quindi hanno comunque spopolato perché sono state in classifica per un bel po' di tempo e si sono viste sulle spiagge di tutta Italia. Ma c'è stata anche una trilogia tutta italiana e molto molto rossa. L'ha scritta una giovane scrittrice esordiente, tra l'altro, di Pordenone, si chiama Irene Cao e ha pubblicato questa trilogia Io ti guardo, io ti sento, io ti voglio, pubblicata da Rizzoli ad un prezzo veramente concorrenziale perché insomma 5 euro per un libro è decisamente concorrenziale. Inizialmente lei aveva scritto nel 2008 un romanzo molto rosa, poi però diciamo in fase di editing e di pubblicazione ha aggiunto parecchio rosso e quindi parecchio erotismo. Allora quando insomma l'ho chiamata, la prima domanda che le ho fatto ovviamente è quanto si è fatta influenzare da queste 50 sfumature. Sentiamo che cosa ci ha risposto. Allora, le 50 sfumature le ho lette più per un dovere di informazione, perché ovviamente una trilogia che fa un così grande successo deve pur avere qualche ingrediente giusto, però ho voluto cercare qualcosa di diverso. Io ti guardo, io ti sento, io ti voglio sono qualcosa di diverso dalle 50 sfumature. Ho cercato una differenziazione soprattutto nel modo di raccontare il sesso. Credo che appunto ormai si sia detto di tutto, quindi non sia tanto il che cosa la questione, ma come lo si racconta. E ho cercato di seguire un modo che sentivo più mio, dove molto spesso ciò che prevale è la sensazione, l'emozione, il senso più che l'azione meccanica in sé e la descrizione appunto molto meccanica dell'atto. La tua trilogia, come del resto le 50 sfumature di grigio, ha soprattutto un pubblico femminile. Secondo te che cosa piace alle donne di questo genere di libro? Ma io ho voluto cercare... La mia protagonista, per esempio la protagonista femminile del mio romanzo, è una ragazza di 30 anni. In questo senso, cioè, si rivolge a un pubblico che va dalla ventenne ma alla 60enne e oltre. Credo che molte lettrici riescano ad identificarsi nella protagonista femminile, cioè appunto il fattore identificazione che ho voluto ricercare soprattutto mettendo molta veridicità. C'è molto realismo, ci sono scene verosimili, qualcosa che credo possa succedere veramente a chiunque nella vita reale. Ecco, nella mia trilogia non ci sono molti effetti speciali, questo va detto, non ci sono scene di sadomaso. C'è molta veridicità, almeno questo è quello che mi è stato detto anche dalle lettrici. Ecco, vorrei capire se la scrittrice trova che siano così vere perché le ha provate, come le auguro che sia. Credo di sì, ecco. Insomma, si racconta però molto di sé nei romanzi. Non l'ha detto questo. Non l'ha detto, però considera che gli esordienti soprattutto tendono a raccontare molto delle cose che conoscono, giustamente. Perché è un po' più facile. Perché è più semplice, insomma. Io giro la domanda a te. Cioè, perché alle donne piacciono molto questo tipo di libri? Perché veramente è stato sdoganato il genere dalla scrittrice inglese Yale James, le 50 sfumature. Cioè prima si aveva timore a leggere di sesso perché insomma la cultura, tutto quanto, ci si vergogna un po', non è abbastanza chic. Una volta che è stato sdoganato piace leggere di sesso perché fa parte insomma dell'immaginario femminile. Ma non solo, fa parte anche di quello maschile. Sì, ma il maschio non si vergogna né di dirlo né di guardare i film, eccetera. La donna preferisce sognare attraverso un libro. Quindi è più culturale, diciamo così. Le donne leggono molto più degli uomini, mi dispiace, anche ma 1-0 per le donne. Va bene, okay. In quel senso, sì, anche ma... in quel senso. Tra l'altro questo libro di Irene Cao è stato molto venduto all'estero perché si parla di Venezia, ambientato in una prima parte a Venezia, poi a Roma, quindi sai, gli stranieri, i tedeschi, gli inglesi sono andati veramente matti per una trilogia erotica dove c'è anche molto arte e molto made in Italy. E tu ridi, ma è così. No, sono io con una bella operazione anche da un punto di vista di marketing. Assolutamente, ecco, del Made in Italy in Italia, del Made in Italy all'estero. C'è un'altra bella operazione che si chiama Lezioni d'amore. Sì. È un libro pubblicato da Nottetempo, autori vari: Barbara Alberti, Gianrico Carofiglio, Luciana Castellina, Sandro Veronesi. Ognuno di loro ha declinato un aspetto dell'amore e l'hanno fatto prima in diciamo degli incontri che si sono tenuti a Roma in un teatro e poi tutti i loro interventi sono stati racchiusi in questo libro che si chiama Lezioni d'amore e io ho sentito l'editrice di Nottetempo, Ginevra Bompiani, che ci racconta un po' di questo libro. Per 10 settimane 10 relatori, ma non relatori, 10 grandi scrittori in realtà, sono venuti a parlare dell'amore. Noi abbiamo fornito delle declinazioni, 10 declinazioni dell'amore: la passione, il desiderio, il disamore, il tradimento, la gelosia. Ognuno ha scelto la propria e hanno, la prima era l'esitazione che ha fatto Sandro Veronesi, l'ultimo era l'educazione sentimentale che ha fatto Alfonso Berardinelli, e in mezzo appunto la passione di Luciana Castellina e così via, gelosia di Barbara Alberti. E queste 10 lezioni sono state molto belle perché c'era un pubblico fedele che è venuto per tutte e 10 lezioni, ed era un pubblico molto interessato, intelligente, che poi dibatteva e discuteva insieme al relatore e insieme a Davide Riondino, che guidava un po' la discussione. E adesso ne abbiamo fatto un libro di queste relazioni, e anche abbiamo messo alcuni dei commenti perché erano appunto molto interessanti e facevano parte. Dell'amore, insomma, appunto si disquisisce ormai da secoli, si è detto di tutto e di più, anche delle varie declinazioni. C'è qualcosa di uno di questi autori che poi avete raccolto in questo libro che l'ha colpita? Mi hanno colpito moltissime, moltissime cose. Devo dire che una cosa che ha detto Luciana Castellina mi è piaciuta tantissimo. Ha raccontato questo aneddoto dei porcospini. I porcospini, quando hanno freddo, d'inverno hanno freddo, e quindi cercano di avvicinarsi, però si pungono. Allora si allontanano, però hanno freddo. Allora si riavvicinano, però si pungono. Questo insomma è l'amore quotidiano? No, perché alla fine trovano la giusta distanza. Per lei quindi l'amore, insomma l'affetto, l'amore in senso lato, a 360 gradi, è fatto anche di distanza? Beh, è fatto di un pochino d'aria, sì, ci vuole un pochino d'aria. Penso che sia necessario, che sia quello che dà fiato poi all'amore stesso. Lezioni d'amore, questo è il libro del quale stava parlando, edito da Nottetempo. Esattamente. Sei d'accordo su questa storia dei porcospini? Assolutamente sì, per amare ci vuole veramente un po' di distanza e un po' di respiro, altrimenti è annientazione del sé e non va bene. Il proprio spazio. E l'ultima segnalazione si intitola proprio Amore. È un libro pubblicato da Feltrinelli, di Isabella Allende, le più belle pagine di Isabella Allende sull'amore, il sesso e i sentimenti. Quindi una raccolta estratti dai suoi romanzi, forse sia un'operazione commerciale, però è bello tutto sommato per gli appassionati dell'Allende, ma anche per gli appassionati del genere, sentire la passione, la gelosia, la magia dell'amore, nella maturità si intitola addirittura un capitolo, quindi insomma tutti i vari aspetti della vita amorosa e sessuale della scrittrice cilena. Ecco, però tratti un po' dai vari romanzi, scritti, esattamente. Sì. Un po' come un Greatest Hits. Sì, un Greatest Hits, fantastico. Non so quanto mi possa piacere, però può essere interessante. Piace. Grazie Alessandra Tedesco. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. È il momento di parlare di giochi e videogiochi con Andrea Ligabue, il nostro ludologo, ed Emilio Cozzi, il nostro giornalista esperto, appassionato di videogiochi. Perché per scrivere videogiochi bisogna essere appassionati. Ma io mi auguro anche videogiocatori, punto sì, primo. Sì, in quel senso, diciamo appassionato. Sì, di sicuro. No, di sicuro. Devo dire che ho dei colleghi che sono giornalisti, che si occupano di videogiochi, che dicono non ho mai tempo per giocare. E dico, beh, allora come fai a scrivere? Punto curioso, domanda. Come parlare sì, di cinema, succede. È come parlare di cinema senza aver mai visto un film, è molto curioso. Sì. È così, però esiste, va bene, allora esiste. Loro esistono. Andrea Ligabue, la passione si sente sì, sicuramente. La passione si sente, innanzitutto buona domenica a tutti e buon inizio di settembre. E parlando di giochi e passione, la prima cosa che viene in mente è le grandi collezioni. Allora volevo citare, visto che in una puntata avevamo parlato della mia collezione di oltre 1600 giochi, devo dire che in Italia c'è una persona a cui non sono degno neanche di aprire le scatole dei giochi, che è De Carolis, che è il proprietario di Giochi Uniti, che ha più di 16.000 giochi nella sua collezione. Ma dove li ha messi? Lui è di Napoli, è un avvocato, avrà lo spazio dove mettere, non lo so, io già con i miei 1.500 e passa in casa qualche mia difficoltà non ce so l'hai, più, lui 16.000 avrà degli spazi, però volevo dire che appunto ci sono in realtà, quando la passione del gioco si sente, ci sono dei collezionisti veramente a livello mondiale con delle collezioni enormi. L'altra cosa, fenomeno di cui volevo parlare, che è proprio legato, che si basa sulla passione dell'acquistare giochi, dell'avere l'esclusiva, è Kickstarter, che è questa piattaforma di crowdfunding. Adesso nel mondo del gioco da tavolo ha avuto grande diffusione, ci sono tantissimi giochi che escono tramite Kickstarter, offrendo ai giocatori che sono disposti a pagare il gioco prima che esca delle esclusive. Il meccanismo cos'è? Se io compro il gioco prima e do i soldi a praticamente l'autore per prodursi il gioco, in cambio lui mi dà la miniatura esclusiva oppure la mappa che c'è solo nel gioco o la firma dell'autore sulla scatola del gioco. Quindi diciamo un meccanismo di vendita dei nostri tempi che si basa proprio sulla passione dei giocatori e il non saper resistere ad avere qualcosa di esclusivo. Beh, di vendita ma anche di raccolta fondi per poi riuscire a produrre quello che si ha in mente, no? Esatto. E a livello editoriale ci sono poi quelle che si chiamano le versioni dell'anniversario o le deluxe edition, che sono l'equivalente, ovvero delle versioni a tiratura limitata che si fondano sulla passione degli acquirenti. Ad esempio quest'anno, proprio in questo periodo, è uscita da parte di Giochi Uniti la versione dell'anniversario di Puerto Rico, che è uno dei giochi che ha avuto più successo a livello mondiale nel mondo dei giochi da tavolo, ed è diciamo una versione di lusso in cui ci sono i dobloni, che normalmente nelle edizioni normali erano di cartoni, sono fatti in metallo dorato, ci sono le pedine in legno, gli edifici in cartone costruiti e illustrati, quindi una versione di lusso. Io ad esempio sono stato rapito dalla versione di lusso della Guerra dell'Anello, un gioco pubblicato in Italia da Nexus, che è una casa editrice che purtroppo adesso non c'è più, che veniva venduto all'interno di una scatola che era fatta come il libro del Signore degli Anelli, costruita di legno, con dentro oltre 300 miniature tutte dipinte. Un gioco che non voglio dire quanto ho pagato, però è molto... Anche perché tua moglie poi magari questa sera... E si chiamano Collector Edition poi invece per quanto riguarda i videogiochi, le edizioni, quelle che hanno all'interno qualcosa di particolare. Sì, ci sono le Collector, sono le Deluxe, ci sono... è un altro mercato parallelo poi al digitale, che è la frontiera chiaramente, non più nuova ormai, è la normalità, ma è una frontiera imperante diciamo, però... C'è un mercato di feticisti e collezionisti cui appartengo e sono orgoglioso di appartenere. Io ho tutte le versioni di giochi che mi piacciono, americane, giapponesi, con gadget, con action figure. Io sono un pazzo. Io non dico niente. No, l'ultimo gioco di cui volevo parlare è un gioco, diciamo, dal tema curioso, se non apertamente provocatorio, in grado di creare polemiche. È un gioco uscito quest'anno, edito da Raven Edition, di Manuel Castro, e si chiama Squillo. Sì. I giocatori sono dei papponi che devono gestire il loro gruppo di squillo tra escort e donne da strada e riuscire a ottenere il business migliore. È un gioco che ha destato moltissime polemiche alla sua uscita. Sì. La prima polemica è il fatto che poi non è tanto l'argomento in sé, secondo me, ma il fatto che i papponi siano per forza maschi e le squillo siano per forza donne. Cioè, se è questo, cioè, francamente, siamo ancora lì. Cioè, quello è. Sì. Ecco, questo forse può far discutere. Poi l'argomento in sé, vabbè. Dice che sia il mestiere più vecchio del mondo, per cui... No, diciamo, è un gioco, ecco, che non è sicuramente un tipo di gioco che a me piace, e io, se devo essere sincero, non l'ho neanche comprato questo gioco qua, però è un gioco che ha avuto un successo ed è a livello ludico un gioco efficace, cioè il gioco funziona, gioca bene così. Che poi l'argomento sia quello che è, e soprattutto purtroppo che dia uno spaccato di una società che forse è quella che è, questo è sicuramente... Ecco, la discussione su questo. Esatto, ecco, sicuramente questo è in dubbio. E, diciamo, io sono spesso refrattario a questo genere di polemiche, come quando mi dicono che i giochi di guerra insegnano ai bambini a fare la guerra, o che i giochi troppo violenti nelle loro argomentazioni o nelle loro, diciamo, illustrazioni possano generare violenza. Io credo che un gioco sia un gioco che parla di argomenti che purtroppo sono nel mondo reale. Poi bisogna dire, sarebbe meglio avere un mondo in cui queste cose magari non ci sono, sono tenute sotto controllo, però il gioco in sé, come proprio trasposizione, spesso non credo che possa generare né turbamenti né problemi, anzi a volte trasformare in gioco quello che potrebbe essere un argomento sensibile e difficile può aiutare a capirlo, a affrontarlo e a spiegarlo. Sì, sono d'accordo a metà, nel senso che sono d'accordo con te, nel senso non si può demonizzare un gioco o un videogioco. Io ne parlo a ragione veduta, perché il videogioco è veramente spesso capro espiatorio, è evidentemente un alibi, evidentemente una scappatoia. Detto questo, i videogiochi, come i giochi, sono dei veicoli, e quindi come tali qualcosa comunicano, che non è, e lo ripetiamo spesso qui, non è puro intrattenimento, non esiste un intrattenimento neutro dal mio punto di vista. E qui si potrebbe riflettere a lungo, insomma. Allora, Emilio. Sì. Eccomi. La passione che tu senti, la passione con tutte le tue collector edition. Assolutamente, certo. Sì, assolutamente sì. Ecco, nel videogioco la passione, dirò magari in maniera più specifica, la sessualità sono temi all'avanguardia, sono temi nuovi, perché purtroppo, e questo è segno di un mondo che sta diventando adulto adesso dal mio punto di vista, che se ne dica, è stato blindato dal punto di vista contenutistico per i suoi primi 40-50 anni, per motivi evidenti. Il videogioco arriva da una cultura che è bianca, maschile quando non maschilista, e tecnica. Chi faceva i videogiochi sono nati attraverso persone che avevano la capacità tecnica di farla, quindi non potevano certo rappresentare immaginari e fantasy di tutti gli altri. Guarda caso, i temi nei primi 50 anni possiamo riassumere veramente con 2-3 esempi: salva la principessa, distruggi l'astronave, uccidi il nemico. È chiaro, questo mondo sta venendo meno grazie al cielo. La passione quindi è, come dire, dal mio punto di vista, rivoluzione. Recentemente c'è stato un congresso, Sexism e Sexuality in Games, guarda caso tenuto da David Guider, che è uno di BioWare, uno che fa Mass Effect e Dragon Age, giochi che vendono milioni di copie. C'è gente come studiosi, critici come Anantropi, che dedicano alle proprie visioni, appunto radicali spesso, dei videogiochi, che sono di estrema riflessione e estrema attualità. Lei è un'attivista transgender che dedica ai propri giochi tutto il suo vissuto, e questo è estremamente interessante. C'è un libro recentemente uscito in Italia, lo ha scritto Luca De Santis per Unicopli, si intitola, guarda caso, Video Games, e affronta il tema della omosessualità nei videogiochi, e io credo che già affrontare un discorso di questo tipo sia segno di, spero, maturità che sta arrivando. Concludo, anzi, con due esempi agli antipodi per certi versi, ma molto interessanti. Uno è Catherine, un gioco uscito l'anno scorso per Atlus Japan. È un videogioco in cui si interpreta un maschio, un giapponese, che deve scegliere se essere fedifrago, scegliere tra una fidanzata o la futura moglie, una che rappresenta la libertà dal suo punto di vista e una invece che rappresenta l'istituzione, i valori antichi, ed è estremamente divertente, perché poi lui nella notte ha questi incubi dove una pecora vede altre pecore che sono altri uomini come lui, e questo già a me intriga tantissimo. E chiudo con questo intervento un gioco che non è ancora uscito, un progetto molto interessante, si chiama Wicked Paradise, e parla di una cosa che a Riposo del Guerriero abbiamo affrontato tempo fa. Sarà il primo gioco erotico. Il videogioco erotico non è una novità videoludica, anzi, io mi ricordo della gran Samantha Fox in qualche poker di qualche tempo fa. Piccolo dettaglio, qui utilizzerà l'Oculus Rift, quell'aggeggio della realtà virtuale che ti permette davvero, e vi garantisco che è efficace, di calarti nell'ambiente di gioco sintetico. Immaginatelo con un contenuto erotico, io non vedo l'ora che esca. Vedremo il futuro, appunto, e chissà quanti soldi spenderai, ma tu hai scelto di fare il giornalista, così te li fai mandare gratis, almeno per recensirli, poi li devi restituire, ovviamente. La passione comunque, adesso a parte questo, c'è nelle cose che amiamo e che vi raccontiamo, indubbiamente. Io ricordo comunque, per quanto riguarda i videogiochi, all'inizio erano astronavi, alieni, quindi non c'era né il maschio né la femmina. Sì. E poi è arrivato uno degli eroi, Pitfall, ti ricordi? Certo. Però c'era anche la Cabbage Patch Kids, che era questa bambola nata dal cavolo e che era forse uno dei primissimi protagonisti femminili dei videogiochi. È vero, ma è questo un altro tema. La femminilità nei videogiochi è veramente, anche in quel caso, frutto di uno stereotipo che deriva, da come dicevo prima, dalle sue origini. La donna nei videogiochi, ci sono tantissimi congressi recenti, fino a poco tempo fa era o da salvare, quindi un personaggio del tutto passivo e quasi ininfluente. La Daphne di Dragon Slayer, esatto, dentro la sua bolla, e stava benissimo, esatto. Poi pensate, non dovevi preoccupare. Pensate alla donna che i due ragazzi di Double Dragon devono salvare. Si vede all'inizio, prende un pugno nello stomaco, scompare, e grandissima trovata e come dire a sorpresa, quando loro, dopo essersi scazzottati per 3 ore, arrivano a salvarla, la lasciano lì e vanno via insieme per salvare la città, e questa è eccezionale. Questo ci dice anche altre cose, certo. Grazie Emilio Cozzi, grazie Andrea Ligabue. Il riposo del guerriero. Nella nostra puntata estiva del Riposo del Guerriero parliamo, come sempre, anche di cinema, televisione e musica, insieme a Marta Cagnola, che ci porta tutta la sua passione oggi, visto che questo è il colore. Ciao Marta, buona domenica. Ciao Stefano. Allora, quando ho parlato con Giorgio mi ha detto rosso amore, gli ho detto ma rosso anche sesso? Sì, certo. Perché qui vogliamo subito andare un po' sul piccantino, anche se insomma l'orario, la domenica, però andiamo subito. Facciamolo. Subito sul piccante. 50 sfumature di grigio. Ma quello è sesso, scusami, adesso voglio dire. Quella è atletica leggera, quella è atletica leggera, certe cose veramente richiedono una preparazione fisica che... Fammi prevedere, esce il film? Ma guarda, è una passione nel senso di una sofferenza. Sono ormai mesi che ma è una trilogia anche il film o hanno condensato? Ma vuoi privartene forse? Beh, ma ce l'avremo tutta. Insomma, Sam Taylor Johnson, regista, il cast in via di definizione dopo mesi di sospiri, di... Io, sai che ho fatto un po' di ricerche? Ci sono centinaia di blog, di fans che propongono l'attrice, l'attore, io vedrei bene Christian Grey con il volto di, con il volto di... vabbè, insomma, ce l'avremo sto film. Non so quando uscirà ancora. Stiamo aspettando di capire anche il completamento. Speriamo di averlo in questa stagione. Così, sai com'è, ce lo togliamo già il primo. Sì, certo, una volta fatta, ciao. È alle spalle. Via. Andremo avanti per chissà quanto tempo. E, amore, passione, però film romantici, devo dirti la verità, non tantissimi. Sono rimasta un po' male perché ho guardato un po' tutte le uscite dell'anno. Secondo me ci sarà qualche chicca ancora nascosta nei listini. Spesso i film romantici sono quelli un po'... Cosa si raccontano più, le storie delle persone? Tanto. Sì. Tanto. La commedia, la commediona romantica, quella proprio, secondo me, è qualche anno che non c'è più il vero filmone romantico. Io però scommetto molto su questo film di un regista... che non è un regista da commedie romantiche, che è il nostro straordinario Paul Haggis. Quindi noi pensiamo subito a Crash. Ti dico già il cast. Sì. Jude Law, sì. Olivia Wilde, Liam Neeson, James Franco, Mila Kunis. Non male. Direi che il cast già messo così mi piace. L'uscita è 14 novembre, quindi io già mi immagino quelle giornatine un po' uggiose, quelle umidicce. Quelle domeniche pomeriggio in cui uno dice: ma cosa facciamo? Stiamo in casa, usciamo? No, andiamo al cinema. A vedere? E passeggiando ci compriamo anche un cartoccio di calda arroste. Sì. Ecco, a vedere, third person. E ci svuotiamo i portafogli col alla cartoccio grande, certo. Ma arroste. Non ne rimane proprio più. Calda arroste, cinema, poi a letto senza cena, ovviamente. Per forza. Ma certo. Il titolo, scusami. Third person, terza persona. Sì. Tre storie, tre amori, tre città. Allora, ci ricordiamo Crash, quindi insomma una costruzione complessa per un film. Questo film è un film drammatico, ma basato sui sentimenti. La pellicola ci racconta la vita di tre coppie che vivono in paesi diversi, quindi è un film che racconta le storie delle storie, che si interroga un po' sulle relazioni sentimentali. Le tre storie sono ambientate a New York, a Parigi e a Roma. Io sono sempre molto curiosa quando un regista straniero racconta l'Italia, le città italiane. Sicuramente punto di più su Paul Haggis che sulle cartoline di Woody Allen, che insomma ci hanno anche un po' stancato, ma vabbè, chiudiamo così come abbiamo aperto questa polemica su Woody Allen cartolinista. Nella parte francese c'è ovviamente un triangolo, perché sì, i francesi sono così, i francesi sempre così. sempre che per loro il numero perfetto al cinema il ménage à trois, infatti si chiama il ménage à trois, sempre francesi, sempre a tre. In America una donna cerca di riottenere la custodia di suo figlio, ecco, dopo perché, questa ecco. In America sono solo questioni legali, ecco, e basta, cioè il matrimonio è sempre solo una questione legale, quindi c'è sempre l'avvocato di mezzo, lei immagino. È accusata in realtà di aver ucciso il figlio, sì, e cerca di riavere, però comunque legale. Esatto. Che poi... cosa succede a Roma? Ah, c'è l'Italia. Certo, ma anche di amore non può lo stereotipo un po' c'è, perché altrimenti... Però insomma, io sono comunque fiduciosa. Un uomo d'affari americano si innamora di una donna italiana, tanto da cercare di aiutarla a liberare sua figlia rapita da un boss locale. Ecco, quindi abbiamo ho capito. Okay, no, quindi però, c'è un dai, po' magari di azione americana, un po' di stereotipo. Un po' di stereotipo, però vabbè, senti, è Polaris, sì. Io mi fido, poi vedremo. Vabbè. Vedremo cosa succede, va bene. Okay. No, anche perché ho pensato un po' ad altri film di passione. Vabbè, c'è questo Two Days in New York, visto che non abbiamo parlato in queste settimane, e l'ho fatto apposta perché ne avevo trovati tanti, però l'ho fatto per te sapendo che un po' soffri. Sì. Non ho parlato di sequel, prequel, remake, perché so che tu, insomma... Li amo molto, sì, certo. Esatto, sì. So che un pochino sta roba... Non hai un'idea? Bene, fai il sequel allora. Ok, non hai un'idea? Beh, fai il prequel. fai prequel, è certo. Andato bene, ma perché buttare via una cosa che è andata bene? Ma parliamone, ma rifacciamo il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, esatto. Ormai, anzi lasciamo tutti i finali aperti, così magari riusciamo a anche gli inizi aperti facciamo, così i prequel sono più facili. Certo, perché così se partiamo da Adamo ed Eva poi non possiamo tornare indietro. Certo. Ecco. Questa volta arriverà il seguito di due giorni a Parigi, quindi Julie Delpy, quindi una cosa un po' francese, Chris Rock, Julie Delpy, perché Chris Rock? Perché il titolo originale Two Days in New York, il titolo italiano Due giorni a New York, sarà un prosieguo un po' americano, vabbè, insomma, una commedia romantica. Vabbè, vedremo. Vedremo, io non so se vedrò, però insomma, saremo però, a vedere, questo volevo dire. Ah, ecco. Credo che invece tu andrai sicuramente a vedere Universitari Amori in Corso, che è il nuovo film di Federico Moccia. Sicuramente, sì, anzi quando esce... Adesso guarda, controllo così ti do la data precisa e già lo... Ma è uno di quei film dove si vedono sempre solo gli armadietti, sai, gli americani, si vedono solo gli armadietti, sono ambientati negli armadietti dei college americani. Infatti diciamolo. Un'invidia, non ho mai avuto un armadietto, invito solo in palestra. Sono ambientati lì, succede tutto nel corridoio tutto del college, è facile, sì, no, anche la scenografia. Moccia anche lì, sì. Ma viva Dio, va benissimo anche Moccia. Va benissimo, sicuramente. Io sono fuori target perché sono ma anch'io sono fuori solo target, quello. Ma però, è l'unico motivo, no, non ce ne sono altri. No, io invece, va bene, ma io sono favorevole. Va bene. Sono favorevole soprattutto perché ha fatto leggere una generazione di adolescenti che non avrebbe mai preso in mano un libro. E questo già è un grosso merito. Sì, l'ha fatto anche Topolino, ma questo è... Vabbè, un'altra cosa. Quello è diverso. Allora, invece le serie televisive. Allora, serie televisive, se penso legate alla passione, al rosso, alla passione. Penso rosso, passione, sesso. Penso a una delle mie preferite in assoluto, che è Californication. Eccola. Non so se tu sei un appassionato. No, non sono appassionato. Ma... Io la adoro. Californication è divertentissima. È la storia di questo scrittore, Hank Moody, molto dedito a qualsiasi tipo di eccesso, però sempre qui con grande ironia, prosegue perché in Italia dobbiamo vedere la sesta stagione, ma è stata rinnovata anche per una settima stagione. La sesta stagione è molto rock perché è una stagione straordinariamente ambientata nella musica, perché il nostro Hank Moody addirittura entra a far parte di una sorta di band. Ah, quindi rock proprio nel vero senso della parola, non rock alla Celentano. No, lui si innamora, alla Hank Moody, diciamo, di una musa. Ispiratrice. Di una musa ispiratrice, groupie nel senso storico delle groupies, ne farà di tutti i colori, anche qui. Con la groupie anche, ovviamente. Certo, ma con tante, perché insomma Californication Californication, beh, d'altronde stiamo parlando di passione, quella è la serie più appassionata. Ma c'è anche qualcosa di nuovo? Sì. Ho cercato, beh, insomma non è facilissimo andare a trovare cose... un po' hot, ma neanche tanto, insomma in televisione sappiamo che tantissimo, anche se ad esempio Californication in un canale come Showtime, quindi in America i canali sono un po' diversi dai nostri, perché non ci sono canali via cavo, canali per cui insomma se tu paghi non hai il problema di quello che mostri o quello che non mostri, insomma. guardi quello che paghi, quindi sai che cosa stai guardando, non c'è un problema di parental control noi per certi versi, quindi insomma lì è una scelta. La CBS invece ha scelto di iniziare questa serie che si chiama We Are Men, un tema molto attuale. We Are Men, quindi noi siamo uomini, è una storia di single di ritorno. Carter viene mollato sull'altare, si trasferisce in un complesso residenziale in attesa di rimettere assieme i cocci rotti. Si creerà una sorta di cameratismo con tre uomini che messi insieme sono i loser, i perdenti, e cercano di istruire Carter a come comportarsi con il gentil sesso, come tirarsi fuori. Quindi sarà divertente. Sarà divertente, quindi alla fine amore, passione, va in maniera divertente. Quindi We Are Men, CBS, il cast non è un cast che ci suggerisca subito così cose particolari, però effettivamente l'idea potrebbe essere carina. L'idea potrebbe essere gustosa, dai. La musica, passione. Allora mi sono detta, troviamo un'uscita un po' carica di ormone. Sì. Allora ho pensato a... ho pensato a Justin Timberlake. Ah, vabbè. Parliamo proprio d'arte. Sei ritornata ragazzina proprio. Ma alla grande. Ah, vabbè, perché Justin Timberlake non è proprio un pischelletto. No, però insomma, ha il suo pubblico. Piace, ma sì, c'hai i poster in cameretta come una volta? Non ce l'ho, però mi hai dato un'idea. Eccolo là. Potrei metterlo sull'armadio come si faceva un tempo. Ebbene, Justin Timberlake, insomma, che scherzi a parte, è una delle grandi certezze sì, della musica fare, americana. Ci sa fare, poi è assolutamente, insomma, uno che quando esce non dà adito a dubbi, insomma, successo assicurato. Lui aveva fatto, allora, nel 2007 Future Sex Love Sound, quindi già ci siamo, sex, love, rosso, sì. Passione, abbiamo già fatto il compito del colore. Era uscito con The 2020 Experience e adesso ha deciso di fare un secondo capitolo, sarà un sequel, però non essendo cinematografico mi sono permessa di citarlo. Come no? Dovrebbe uscire il 30 settembre. Ovviamente, come spesso accade ultimamente, viene annunciato, l'ha annunciato su Instagram, sui social, ha postato una foto, si sono create indiscrezioni. Sì, si fa apposta così, ormai per creare l'attesa, per fare in modo di parlarne. Tutto, si fa tutto. Ha pubblicato una foto con scritto 2020 Experience 2 of 2, cioè seconda parte, il 2. Sì. Quindi ovviamente qualsiasi indiscrezione si è scatenata. Il 31 ottobre. Parte il tour, quindi abbiamo anche delle canzoni nuove, 6 anni di distanza dal precedente. Justin è cresciuto, è diventato anche attore, è diventato produttore, insomma, al di là del fatto che è un belloccio, spesso anche protagonista delle cronache, un po' rosa. Beh, insomma, lui è uno che, scherzi a parte, è veramente molto solido, quindi è uno da tenere d'occhio. Il disco sarà sicuramente un successo, anche se non so se si può dire ancora disco, ma insomma l'album, il progetto musicale sarà un successo. Tra l'altro Timberlake sarà uno dei nomi di punta dell'iTunes Festival, quindi stiamo parlando di questo appuntamento settembrino organizzato da Apple con dei nomi grossissimi, e qui torniamo sulla tecnologia. Ci saranno Jack Johnson, 30 Seconds to Mars, Jessie J, ogni sera un concerto visualizzabile da chi possiede un device, un dispositivo, sì. Apple, certo, insomma, alla fine un'idea commerciale. Sì, si prova in qualsiasi modo per attrarre verso una piattaforma, e devo dire che se si investe sulla musica mi pare un'ottima iniziativa. Sicuramente sì, grazie Marta Cagnola. Io, per completare l'opera, ti regalerò un album di Justin Bieber, così c'hai tutti Justin. Beh, certo, per essere ancora più giovane. Ciao. A presto. Il riposo del guerriero. Rosso come la passione per Marco Lombardi di unire la cucina e il buon bere al cinema. Il nostro cinegustologo, stavo editando il tuo sito che è cinegustologia.it. Ciao Marco, buona domenica. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Oggi stiamo a luci rosse proprio, allora. Sì. Cinema, luci rosse, nel rosso. No, non devo parlare di quello, parlo di altro. No, cosa sì, no, no, non so tu a cosa hai associato, ti ho lasciato la massima libertà, quindi potrebbe anche essere, ma non credo che tu, insomma, farai questa facile associazione. Ecco. Ma sai, a volte nel banale sta la più profonda verità. Beh, allora no, però ci dobbiamo un attimo liberare da questa associazione che credo, spero che non sia solo mia, che non sia frutto delle mie devastazioni delle sinapsi. Le poche ancora che esistono, ma insomma, il rosso fa pensare appunto alla passione, ma fa pensare anche a una passione estrema. Evitiamo insomma, di parlare di un certo genere di cinema. Allora, il rosso, tra i vari rossi, vedremo adesso bevande, materie prime, frutta. L'anguria è una cosa profondamente estiva. Qui non è un'associazione cinegustologica, è proprio un rimando a un film che si intitola Il gusto dell'anguria di Tsai Ming-liang, che è un regista di Taiwan molto famoso nel circuito festivaliero, vincitore di un sacco di premi. E allora questo signore, nelle scene iniziali, ritrae una ragazza che in mezzo alle gambe ha un'anguria tagliata a metà. Vicino a lei c'è una ragazza penso che potete immaginare che cosa stia cercando di fare, ma lo fa su questa anguria, per cui fa il classico scavo dell'anguria che noi facciamo tutti gli anni, magari qualcuno lo sta facendo adesso in spiaggia per dissetarsi, e insomma nel film questo ragazzo scava l'anguria per altre finalità, anche queste profondamente simboliche. Ci siamo liberati della parte a luci rosse e adesso possiamo parlare invece del rosso da un punto di vista cinegustologico, quindi bevande rosse e quali film. Io mi sto appassionando negli ultimi tempi, ed è questo un vino ancora profondamente estivo, al Lambrusco. Il Lambrusco, ai tempi del metanolo, del vino di quando si faceva male, era considerato, ed era giusto, insomma, era purtroppo un vino abboccato, quindi aggiunte di zuccheri, erano insomma delle bevande che veramente poco avevano a che vedere con l'uva. E invece i Lambruschi, che si stanno facendo da un po' di anni, sono dei grandissimi vini che hanno la dignità insomma di tutte le bollicine, anche se non è una bollicina in senso stretto. Guarda, il nostro gastronauta ti accoglie a braccia aperte, perché lui, se non mi sbaglio, associa anche il Lambrusco alle ostriche, dice: al posto dello champagne provate con il Lambrusco, e secondo me, perché comunque essendo bollicina sgrassa, come dice lui, e quindi funziona anche in quel senso, dandogli un gusto, quindi prova se non hai provato. Ecco. E lo farò assolutamente, mi manca, avevo provato col moscato dolce, che è anche un bel abbinamento con le ostriche, ma farò col Lambrusco. Di Lambruschi oggi comunque ce ne sono ancora di due tipologie, sono quelli ancora più, insomma, un po' più dolcini, abboccati, invece quelli proprio secchi, integralisti. In entrambi i casi il Lambrusco, per l'effervescenza, per l'aromaticità forte, floreale, di frutta che ha, e per insomma la sua componente comunque acida che c'è, è notevole, mi fa pensare a questa gioiosità un po' anche scomposta ai musical. Se si ha davanti un Lambrusco più insomma degli anni più 80, quindi un po' più dolcino, ma magari ha dei musical più dolci, più facili, più rotondi, tipo il grandissimo The Blues Brothers di John Landis dell'80, o il recente Mamma Mia del 2008, tutto con le musiche degli ABBA. Sento gli ABBA che stanno arrivando. No, questo è Blues Brothers, no. Credo. Ah, ecco, Blues Brothers, Mamma Mia, orca miseria. No, perché... Ecco, sì. La lasciamo di sottofondo. Esatto, bravo. E passiamo invece a questo punto ai Lambruschi più secchi, e quindi con qualche nota un po' più spigolosa, nonostante la piacevolezza dell'insieme. Quindi qui possiamo andare alla Rocky Horror Picture Show del 75, a Jesus Christ Superstar, oppure al Tommy di Ken Russell del 75 di nuovo, quindi a musical che hanno dietro anche comunque delle tematiche sociali, politiche, o comunque analizzano i costumi in maniera apparentemente solo divertente e divertita, ma di fatto insomma anche con qualche sgomitata alle cose che non vanno a livello collettivo. Poi bisogna mangiare qualcosa di sostanzioso adesso, non ci si può solo ubriacare di Lambrusco, anche se Lambrusco ha gradazioni molto basse, quindi è dura ubriacarsi. Ma sai, d'estate con una cosa fresca va giù, È vero, ahimè sì. Il Lambrusco sarebbe anche da bersi con la cannuccia direttamente nella bottiglia, volendo, e gli andrebbe giù ancora meglio. Vabbè, il pomodoro sì, è una cosa anche qui, vabbè, di tutto l'anno, ma comunque molto molto estiva, la caprese con la mozzarella, oppure anche il semplice pomodoro in insalata. Poi ci sono una marea di varietà di pomodori, ma noi stiamo sulle linee generali. Questa dolcezza, ma anche questa grande acidità, con questi semini che comunque sono anche questi insomma degli elementi un po' di rottura, e soprattutto con la pellicina del pomodoro, che un sacco di volte, che è quella che crea intolleranza in molti, che non amano i pomodori per la pellicina, e che nei momenti meno giusti ti si inserisce tra i denti, e quando devi mancare, hai una riunione di lavoro e c'hai la pellicina del pomodoro tra un dente e l'altro. A me fa pensare il tutto a un film d'amore, perché il pomodoro c'ha questa sua passionalità cromatica di dolcezza, appunto, quindi di consistenza complessiva, però la pellicina è qualcosa che rimane lì, e quindi una commedia, anzi un film d'amore drammatico, e tra i tanti insomma il Come eravamo di Sidney Pollack del 1973, con questa, poi con la frase finale "ma tu non molli mai", insomma questo prendersi, lasciarsi, riprendersi e lasciarsi definitivamente proprio quando c'è un figlio, è il massimo del melodramma amoroso, quello che tutti quanti noi insomma ci augureremmo di poter vivere nella vita, no? Poi dopo il pomodoro andiamo alla parte finale, alla frutta, un po' di frutta. Che dici, ci vuole, no? Almeno sì, finiamo in bellezza. Almeno d'estate, ecco, andrebbe mangiata sempre, però d'estate viene più voglia di mangiare la frutta. Che poi, allora, mangiare la frutta d'estate è una cosa, cioè, c'è una mitologia, per uno dice, ah, che hai mangiato una roba dietetica, la frutta. Ma non frutta è quello, è che no, cioè, è ricca di acqua, no? È fresca e quindi per forza di cose. E poi anche la situazione, insomma, d'inverno è un pochino più difficile godersi la frutta, invece d'estate lo si fa più volentieri, ecco, anche chi non la ama particolarmente. Certo, soprattutto se la frutta c'ha anche qualche componente un po' così piaciona, come sì, può essere la fragola, per cui è un rito anche, uno al scodellina con delle fragole, a volte anche non condite, ne prende una e mangia una dopo l'altra, un po' come le ciliegie. Ecco. Ho già capito che mi torni sull'argomento passione, ecco, Rosso, oh, da quel mia punto di vista. Era così chiaro. Sì, molto. Non solo torno alla passione, ma qua ci metto il carico pure, perché la fragola, con questa conformazione che non sto a spiegarti, con questa dolcezza un po' erotica, però comunque sempre con l'acidità e i semini pure qua, a me fa pensare al cinema di Tinto Brass, che Tinto Brass è considerato mediamente un regista di serie B, ha fatto tutta una serialità di pellicole tutte uguali l'una all'altra, adesso ne cito una così fantuta del 92, giusto perché la Claudia Coll di quegli anni era insomma era una brava attrice, poi ha rivisto un po' i suoi progetti di vita, ma io mi fermo lì a quella fotografia. E la fragola, insomma, Tinto Brass ha una sua anche drammaticità, perché comunque nei film apparentemente tutti uguali suoi di quel periodo lì degli anni 90, di fatto racconta anche qui un po' come Amici miei, ne parlavamo nelle scorse puntate, la solitudine comunque. Qui il sesso è una forma di fuga o di tentativo di trovare un rapporto con gli altri, anche se in maniera estrema, un tentativo di dare un perché allo starci in questo mondo, ecco. Quindi c'è anche una parte filosofica di Tinto Brass, magari un po' nascosta dietro qualche rotondità femminile, ma c'è. E poi la fragola ha una sua elaborazione, quindi chi odia i semini e gli piace magari un po' più di zucchero, o mette lo zucchero sulle fragole, oppure va dal gelataio e si fa dare il gelato alle fragole, anche se spesso e volentieri nel gelato alle fragole la fragola non è passata proprio per niente, ha salutato da lontano e ha lasciato la chimica che prendesse il suo posto. Abbiamo tanti gelatai, dai, che fanno i gelati con le fragole, frutta fresca, ce ne sono tanti, grazie al cielo, magari sì. Non quelli industriali, però quelli, no, ecco, quelli che troviamo in strada, sì. Quei gelati, e ci sono, dici bene, ci sono assolutamente, però bisogna scegliere, ecco, sì. Non farsi prendere dal primo la prima vaschetta che magari cromaticamente ci prende, a volte il colore cingiato di fragole, ecco, sì. Magari un rosa pallido, eccetera. Allora, il gelato alle fragole, c'è anche qui una componente erotica che è quella della fragola, però c'è anche la freddezza del gelato stesso, e a me fa pensare a un cinema erotico un po' più cerebrale, un po' più algido, che quello di 9 settimane e mezzo di Adrian Lyne del 1986, con un Mickey Rourke prima del pugilato, quindi ancora icona sexy del cinema erotico, e con anche una Kim Basinger che insomma non scherzava. E quello è un film, insomma, è stato molto bistrattato, che però a livello di storia del cinema e di quel genere di cinema è una piccola pietra miliare, piaccia o non piaccia, insomma ha fatto storia e continua a farla in riferimento al cinema erotico. E comunque chi l'ha visto se lo ricorda sicuramente. Grazie, grazie Marco Lombardi. Vi ricordo il suo sito cinegustologia.it. Ancora buona domenica. Il riposo del guerriero. Le suggestioni del gastronauta. Eccoci con Davide Porini, il nostro gastronauta, per parlare del colore che preferirà in assoluto, il rosso, nel senso che il rosso è piacere e passione, e quando si parla con Davide Paolini si parla proprio di questo. Bah, devo dire che le passioni sono tante, però sono molto semplici. Magari uno pensa che un critico possa avere delle passioni molto cerebrali sul mangiare. In realtà devo dire che la mia passione, a cui non rinuncerei mai, sono spaghetti al pomodoro e basilico. Questo lo sappiamo, ma quali spaghetti? Punto di domanda. Spaghetti sono quelli lunghi che ci vuole 14 minuti a cuocerli, quindi ci vuole molto molta attenzione. Anche un grande forchettone per arrotolarli per e servirli nei piatti. E poi ci vuole anche un grandissimo pomodoro, che non deve essere la passata che si compra, quella liquida, ma che magari col pomodoro viene fatta col pomodoro fresco. Ecco, come fai tu il sugo? Ma il sugo io di solito lo faccio con i pomodori freschi, li faccio, diciamo, fai soffritto? Li faccio delle volte sì, delle volte no, dipende dalla serata, però non manca, non manca mai il peperoncino all'aglio. Questo no, molte volte metto la cipolla, altre volte non la metto, quindi se faccio con la cipolla rosolo, se invece lo faccio con il peperoncino lo metto all'inizio e poi condisco con dell'olio a freddo, quindi non dell'olio che lo faccio cuocere. Gli spaghetti cacio e pepe? Mi piacciono molto, le vedo molto più invernali che estivi. Le mando, sono semplici, le preferisco, però, Non sono tanto semplici, perché secondo me quando diciamo si prepara il formaggio bisogna stare attento a non fare venire i grumi, quello è importantissimo. Quindi bisogna usare delle cautele. Un cuoco romano mi ha insegnato che devi diciamo mescolare con l'acqua di cottura, mentre l'acqua di cottura non deve bollire un po' prima, devi rigirarlo, per cui così non vengono i grumi nel formaggio. Secondo il gastronauta, la carbonara, il rosso come deve essere? Un po' più rappreso oppure liquido? Ma io lo vedo molto più liquido, perché il rappreso rimane appiccicato, quindi mi piace molto di più diciamo liquido. E la cosa che invece mi piace molto sulla matriciana è la matriciana bianca. Io preferisco la matriciana bianca. Quindi comunque col guanciale ma senza il pomodoro. Esattamente. Per capirci. Sì, per capirci. Se parliamo di bianco e di rosso, il guazzetto di frutti di mare deve essere rosso o bianco? Ma non lo so, cioè devo dire che non faccio molto, non è che ho una predilizione particolare su questo. Se devo mangiare la pasta con le vongole, allora la preferisco in bianco, non in rosso. Poi i vini, vabbè, quello è un altro capitolo. Ma i vini, però, diciamo che è nota la mia passione che i vini rossi devono essere freschi, molto freschi. Sì. Addirittura io devo dire che anche i grandi vini li preferisco freschi, e la mia passione è il pesce col vino rosso. Ma freschi, diciamo 12 gradi? Beh, 12 no, beh, un Barolo 12 gradi, cioè 14 gradi va bene, sì. Anche in grandissimi vini. Io preferisco bere dei grandissimi vini rossi col pesce. Fammi aggiungere una cosa che è importante. Si sentono sempre che ci sono degli abbinamenti, diciamo, curiali, chiamerei ecclesiastici proprio su questo. Io penso che il mangiare sia un piacere personale, che il gusto sia soggettivo e non oggettivo, e io credo che se uno voglia di mangiare la pasta con le vongole con un grande Barolo lo faccia, e in barba al sommelier che lo guarda allibito, in barba a tutti, perché se in quel momento mi va di bere un Barolo e di mangiare un piatto che non si abbina, me ne frego. Quindi fregatevene, fate quello che volete, quello che vi piace. Poi col tempo probabilmente rielaborerete sicuramente una vostra bibbia di degustazione, che io chiamo il punto G, che è il punto del gastronauta, cioè quello di, dopo aver collaudato tante cose, si arriva al nostro gusto personale, al nostro abbinamento personale. Sui rossi è un po' più facile, ma hai dei bianchi preferiti? Sì, devo dire che amo molto la Francia sui bianchi, però ci sono anche dei bianchi italiani che mi piacciono molto, e mi piace molto un verdicchio di Bucci, diciamo, di 10 anni. Mi piacciono molto i vini invecchiati bianchi, e adoro i vini cosiddetti naturali bianchi. La ribolla, tutte quelle dove c'è la macerazione sulle uve, quelli ambrati, chiamiamoli così, sì. Ecco, quelli mi piacciono veramente molto, e ormai riesco a bere, non dico solo quelli, ma spesso quelli. I vini da dessert? Non li amo per niente, non amo i vini da dessert. Come? A fine del mio pasto preferirei... Continui con quello che avevi? Esattamente, e detesto l'abitudine di bere i vini da dessert con i formaggi. E il miele sopra. Ecco, sì. Queste sono una cosa che dico aborro. Vabbè, sono quelle cose tradizionali, sì, che tu al ristorante trovi. Come e dice, non... aborro, ecco, aborro queste cose. Devo dire che forse un vinello dolce, magari così, fuori dai pasti, come aperitivo, ecco, mi piace, ma solamente in questo caso. Però lontano dai pasti, appunto, così, per piacere tra amici. Lontano dai pasti e lontano dal cuore, come diceva una canzone. I tuoi dolci, a parte il panettone d'estate. Ma li amo tutti, sono molto goloso. Devo dire, sono molto goloso e sono pericoloso. Allora, dolci. Come deve essere il tiramisù? Visto che ognuno mai lo fa a suo modo, però ce ne sarà uno che preferisce. Io sono ancora vecchio stampo, te lo dico, col savoiardo proprio. Ma ti dirò che amo un tiramisù estivo. Ma com'è quello con le fragole? C'è il gelato, invece della crema pasticcera o d'altro, c'è la crema di gelato, e quindi diventa molto, come posso dire, in questo periodo molto... Una sorta di semifreddo. Ma chi lo fa? Lo fa una trattoria a Villa Raverio che si chiama il Cenacolo dei Pittori. Se l'ha inventato lui, e devo dire che è veramente ottimo. E nessun altro ha ripreso questa cosa? Non l'ho vista da nessun'altra parte, perché non è molto conosciuto. Devo dire che mi piacciono molto i cannoli siciliani, mi piacciono molto la cassata siciliana, e mi piace una versione che si chiama cassata alla romagnola, dove c'è lo squacquerone al posto della ricotta fatta a Forlì, in una piccola trattoria che si chiama Don Abbondio, che è di fronte al Museo San Domenico, importante questo museo di Forlì, e devo dire che questi dolci io li ho scoperti in ristoranti veramente poco conosciuti. Scusa, ti faccio l'ultima domanda, è venuta in mente adesso perché hai parlato delle tue parti. La piadina. La piadina, c'è veramente la scuola, la filosofia. Bisogna capire qui come deve essere la mia piadina è molto bassa, sì. Croccante, e mia zia aveva un segreto, che dentro c'era mezzo cucchiaino di miele nell'impasto, e secondo me la rendeva ancora più morbida in bocca. Ecco, a me piace così. Assolutamente strutto. Ah beh, su quello sì, su quello sono talebano, sulla piadina sono talebano, tanto strutto. Sì. Senti, qualcuno usa il miele secondo te, a parte tua zia? Penso di sì, perché mia zia era di famiglia contadina, e penso che fosse un'abitudine della zona, diciamo in questa zona vicino a Forlì, che usavano questo trucco del miele. Ecco, io, visto che tu hai parlato di qualcosa che non sopporti, io non sopporto la piadina non fresca, cioè quelle già preparate che si mettono a scaldare. Purtroppo, come posso dire, direi una battuta un po' volgare su questo, ma c'è il sacro e il profano, quindi... Cambiate. Ecco, perché proprio no. Grazie al nostro gastronauta. E finisce anche questa puntata estiva del Riposo del Guerriero, Rosso Passione, e poi non mi resta che salutare Giorgio De Luca in redazione, Pietro La Corta in regia, ovviamente voi, e buona domenica da Stefano Gallarini.